Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e come sempre i temi di questa giornata economico-finanziaria. Partiremo da alcuni dati soprattutto del mondo delle costruzioni. Oggi infatti l'assemblea annuale dei costruttori italiani, che sono raggruppati dentro la sigla dell'ANCE, è intervenuto anche il Presidente del Consiglio. Sentiremo appunto come va un settore che ancora, lo dico, lo anticipo, chiuderà il 2010 in negativo dopo un anno già difficile nel 2009, previsioni intorno a meno 5% per quello che riguarda il settore delle costruzioni, con un calo forte degli investimenti pubblici. Lamentano infatti in costruttori il blocco degli investimenti pubblici. Avremo anche alcune dichiarazioni del ministro Maroni, che dopo la mega operazione che speriamo abbia non dico stroncato ma seriamente indebolito la 'ndrangheta nella sua presenza in Lombardia, dicevo, oggi è intervenuto sia sull'operazione sia sulla sede romana dell'agenzia che dovrà gestire i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. E, tra l'altro, sono 10.900 beni confiscati, tra cui 1.300 aziende. Ancora, per quello che riguarda il Senato, il voto di fiducia sulla manovra economica è stato fissato per domani mattina e quindi nel maxi emendamento i tagli alle regioni non cambiano. Questo al di là delle varie indiscrezioni di una richiesta da parte del ministro Bossi e del ministro Maroni di ridurre di 1 miliardo i tagli alle regioni. Per quello che si è visto, i tagli alle regioni non cambiano, così come viene confermata la misura che estende all'autorizzazione paesaggistico territoriale il silenzio assenso della conferenza dei servizi. Anche qui ne parleremo. Il ministro Monti è intervenuto, ha detto l'austerità è una necessità, e anche su questo poi i nostri GR hanno, lo avete appena sentito, ricordato le parole del ministro Brunetta, che dice insomma 4 miliardi di spese di auto blu potrebbero essere tranquillamente dimezzati, e ci attendiamo a questo punto che seguono anche alle parole i fatti, quindi il taglio. 4 miliardi, scrivono alcuni di voi, mi sembra un po' eccessivo. Beh, insomma, questa è la cifra che ha fornito il ministro Brunetta. Ancora, per quello che riguarda i dati di borsa, c'è stata questa operazione di Unicredito che ha lanciato stamattina la notizia, un'obbligazione perpetua, uno strumento innovativo di capitale, cioè l'importo è pari a 0,5 miliardo di euro ed è caratterizzata questa obbligazione, questo bond, da una durata commisurata a quella di Unicredit, cioè finché esiste la banca esiste l'obbligazione. Anche qui sentiremo le dichiarazioni di Alessandro Profumo su questa operazione e poi Corrado Faissola, nella sua praticamente ultima giornata ai vertici dell'ABI, dell'Associazione Bancaria Italiana, è ai vertici dell'ABI dal luglio del 2006, domani vi sarà il passaggio di consegne a Roma con l'assemblea annuale dell'ABI tra Corrado Faissola e Giuseppe Mussari, che prenderà, è attualmente presidente del Monte dei Paschi di Siena, diventerà il presidente dell'ABI, dell'Associazione Bancaria Italiana. Seguiremo anche la vicenda Telecom Italia, perché poco fa è arrivata la notizia che il tavolo a 3, governo, sindacati, Telecom Italia, il tema, lo ricorderete, è quello dei 3.700 esuberi e quindi licenziamenti annunciati da Telecom Italia. Il tavolo è stato sospeso circa un quarto d'ora fa. Adesso ci sono degli incontri, da quello che si capisce, bilaterali, quindi governo con i sindacati, poi governo con i vertici di Telecom, per poi dovrebbe riprendere il tavolo. Non abbiamo ancora capito a che ora e con quali modalità. Infine l'energia, perché oggi l'Enel, dopo l'operazione che abbiamo seguito a inizio settimana a Fusina, Venezia, la prima centrale a idrogeno, oggi ha inaugurato la prima centrale al mondo a usare la tecnologia dei sali fusi, insomma, per un impianto a ciclo combinato. In sostanza è una tecnologia che permette l'utilizzo anche del sole, è un impianto solare centrale di circa 5 megawatt. e anche di questo parleremo. Sono due operazioni importanti, quelle dell'Enel, perché da un lato si utilizza l'idrogeno a Venezia, la capacità in quel caso è di soddisfare di elettricità una città di 20.000 abitanti circa, in questo caso invece l'energia solare. L'ultima cifra, 349-238-6666 per i vostri SMS. Le notizie in breve. E apriamo con la borsa. Dunque, la borsa oggi è abbastanza tranquilla, perde lo 0,4% nel finale, come Parigi, Francoforte più 0,2%, Londra meno 0,7%, l'America guadagna un modesto 0,1%, chi è ancora in rafforzamento invece è l'euro, siamo a 1,2755 nei confronti del dollaro. Bene, ST Microelectronics, stanno uscendo le trimestrali americane, sono tutte molto buone. Alcoa oggi, Intel più 2,5%, Unipol più 1,95%, Impregilo più 0,90%, l'Automatica più 0,80%, Fiat più 0,70%. Chi va male? Luxottica meno 2%, Azimut meno 1,7%, Finmeccanica perde l'1,6%, Saipem meno 1,4%, Buzzi Unice meno 1,3%. L'1% lo perdono sia Atlantia, QB Banca che Unicredito, lo 0,80, il calo di Intesa San Paolo ma anche di Telecom Italia, Banco Popolare meno 0,70%. Allora, settore aereo, la Commissione Europea ha dato il via libera alla fusione tra la compagnia aerea British Airways e la spagnola Iberia. L'operazione infatti non comporta ostacoli significativi alla concorrenza nel mercato unico europeo. Domani invece, per quello che riguarda il mercato internazionale, debutta la cinese AG Bank, l'Agricultural Bank of China, alla borsa di Shanghai. È l'ultima delle quattro grandi banche pubbliche cinesi a presentarsi sul mercato. Le altre infatti, Bank of China, China Construction Bank e Commercial Bank of China, sono entrate in borsa 4 anni fa. E tra l'altro la banca dovrebbe raccogliere, insomma, con questo collocamento in borsa, 22 miliardi di dollari. Il miglior risultato da sempre per una IPO, per un collocamento in borsa. Andiamo avanti con le notizie di carattere internazionale. La Banca Centrale Europea ha fatto sapere oggi che nel mese di giugno ha concesso prestiti record alle banche spagnole, 126 miliardi di euro. Interessante, o meglio importante, l'incremento, più 48% rispetto a quanto aveva concesso a maggio, quando diede come prestito alle banche spagnole 85 miliardi e mezzo di euro. Qui c'è il problema non tanto della tenuta delle banche spagnole in sé, sono considerate, Santander soprattutto, tra le più solide in Europa. Il problema è che è il mercato immobiliare spagnolo, il mercato dei mutui, delle grandi società di mutui, che sta letteralmente in ginocchio, e lì sarebbe interessante capire quanto esposte sono le banche spagnole con il settore immobiliare. Allora, vedo già che qualcuno ci scrive sulle obbligazioni perpetue, perché Intesa San Paolo le emette da anni ed è uno strumento per garantire rendite invece dei prodotti assicurativi molto più onerosi. Ringraziamo per la segnalazione, adesso ne parliamo. Andiamo avanti con i mercati invece, perché oggi il Portogallo è riuscito a collocare le obbligazioni, i titoli di Stato, con una domanda migliore delle attese. Erano BOT a 2 anni, o BTP a 2 anni, ed è praticamente, ne ha collocati 1 miliardo e 680 milioni a 2 e a 10 anni. Le richieste erano di 2,5 volte quasi superiore all'offerta, quindi un buon segnale, vuol dire che il Portogallo non ha problemi a rifinanziare il suo debito. Sappiamo che il Portogallo, la Grecia, già la conosciamo, la Spagna sono i paesi più a rischio in questo momento, e ricordo che proprio ieri è arrivato il declassamento del voto sul debito portoghese da parte di Moody's. Inflazione, buona la notizia sull'inflazione, a giugno è rallentato all'1,3% su base annua la crescita dei prezzi al consumo, era 1,4 nel mese di maggio, la benzina ha fatto più 7% su base annua, cioè rispetto a giugno del 2009, però è in calo come incremento rispetto a maggio, quando segnò un più 16% la benzina rispetto al maggio del 2009, cioè è sempre in aumento rispetto all'anno fa, ma con un aumento più contenuto. Diciamo così, per il gasolio più 13,3%, l'aumento giugno 2010 sul giugno 2009, a maggio però fu 17% il rincaro del gasolio. E quello che è l'indicatore dell'Istat per i prodotti acquistati con maggiore frequenza, dagli alimentari ai carburanti, c'è stata una frenata, sono cresciuti dell'1,6% rispetto all'anno prima, questi prodotti a maggiore frequenza di uso rispetto al 2,1% di maggio, ed è il dato più basso negli ultimi 6 mesi. Allora, l'occupazione nel 2011 smetterà di cadere, questo è il rapporto Prometeia presentato oggi a Bologna, e quindi ci sarà un miglioramento dell'occupazione nel 2011, però nei prossimi 3 anni, secondo l'analisi, potranno essere recuperati in Italia soltanto la metà dei posti di lavoro che si sono persi in questi 2 anni, cioè degli 800.000 circa, sono quasi 800.000 posti di lavoro persi dal 2008 al 2010, di cui la stragrande maggioranza sono stati persi nel settore industriale, 730.000, di questi, diciamo, 370.000 dovrebbero essere recuperati. Allora, la lotta all''ndrangheta e alla camorra, gli arresti effettuati ieri, ma in mattinata, li abbiamo anticipati nei primi GR della mattina, seguiti lungo tutta la giornata, vi hanno aperto la maggior parte dei giornali oggi. Su questo, o meglio, sulla cosa più importante, cioè come gestire non solo le persone, ma i beni confiscati alle criminalità organizzate, è lì che si va veramente a fare male a 'ndrangheta, camorra e mafia. Su questo oggi ha inaugurato il ministro Maroni la sede romana dell'Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata. La sede, diciamo, nazionale è volutamente a Reggio Calabria, e infatti l'ha inaugurata assieme al presidente dell'organismo basato a Reggio Calabria, che è Mario Morcone, il quale ha ricordato che sono 10.900 i beni confiscati, tra cui 1.300 aziende. Sentiamo su questo il ministro degli interni Roberto Maroni. L'Agenzia per la gestione dei beni sequestrati e confiscati è una, lasciatemi usare questa definizione, un'infrastruttura critica, cioè una struttura strategica nella lotta alla mafia. Rappresenta la punta di diamante, assieme alla cattura dei latitanti, nel contrasto alla criminalità organizzata. L'attività di sequestro e poi di confisca dei beni che ha visto in questi mesi, grazie anche agli strumenti legislativi messi a disposizione dal Governo e dal Parlamento, un incremento straordinario, è la strada maestra per colpire al cuore la criminalità organizzata. Ma sequestro e confisca da soli non bastano, occorre che questi beni vengano immediatamente, tempestivamente utilizzati per le finalità sociali previste dalla norma. È un fatto anche culturale, sociale, oltre che istituzionale, e ha una ricaduta importantissima nella consapevolezza che acquisiscono i cittadini che lo Stato riesce ad andare fino in fondo, che lo Stato c'è non solo con i militari, non solo con le forze dell'ordine, non solo per controllare e arrestare i mafiosi, ma lo Stato c'è perché riesce a restituire alle comunità i patrimoni sottratti alle comunità dalla malavita organizzata. Allora, per quello che riguarda invece altre notizie in breve di oggi, diciamo della finanziaria, domani il voto alla fiducia al Senato. Il maxi emendamento dice sostanzialmente Italia e le regioni non cambiano. È attesa una vera e propria stangata sul mondo delle assicurazioni. Speriamo che poi le assicurazioni non la riversino sugli assicurati, perché dalla finanziaria si prevede un gettito dal mondo delle assicurazioni di 264 milioni, cioè 30 milioni in più tra conti e saldi IRES rispetto alla versione iniziale. E allora il ministro Tremonti ha ricordato oggi, a margine dell'assemblea di Confcooperative, l'austerità è una necessità. E di fronte comunque alla crisi, il Paese, secondo Giulio Tremonti, ha tenuto. Possiamo dire che nel Paese c'è diffuso e profondo il senso della responsabilità. Naturalmente ci sono stati elementi e segmenti che hanno più o meno manifestato la loro contrarietà, ma nell'insieme il Paese ha tenuto, tiene e terrà. E così appunto Giulio Tremonti a margine dell'assemblea delle Confcooperative. Tra l'altro le Confcooperative hanno avuto un 2009, lo ha ricordato lo stesso presidente Luigi Marino, buono anche sul fronte dell'occupazione. Più 2% gli occupati, da 506.000 a 517.000, con appunto 20.500 imprese associate e circa 3 milioni di cooperatrici e cooperatori. Chi invece non vede segnali di ripresa è, come anticipavamo, il mondo delle costruzioni. Praticamente in 3 anni, questa è la denuncia arrivata oggi dal presidente dell'ANCE Buzzetti nel corso dell'assemblea annuale nazionale, si è tornati indietro di 15 anni, quindi il livello del settore è tornato a quello di metà degli anni 90, meno 17%. Gli investimenti stimati a fine 2010 rispetto al livello del 2008, e nel comparto nuove abitazioni il calo è del 30%. 200.000 lavoratori espulsi nel comparto delle costruzioni, però dice Buzzetti, insomma, gli operai dei cantieri che restano a casa non fanno notizia, anche se sono molti di più, rispetto a quanto fa notizia una fabbrica che chiude. La crisi è durissima, i numeri sono di perdite di fatturato e di investimenti importantissime, meno 17% dal 2008, meno 30% nelle costruzioni, siamo ritornati ai livelli di investimento di metà degli anni 90 e soprattutto abbiamo perduto 200.000 posti di lavoro, sono 200.000 operai che hanno perduto il lavoro, questo non viene evidenziato come quando chiudono le fabbriche, in cui c'è la pubblicità in televisione. I nostri posti si perdono in silenzio, alla spicciolata. È una tragedia sociale gravissima e sta accadendo di peggio. Stiamo cominciando a prendere in considerazione, per mancanza di lavoro nelle nostre imprese, di dover licenziare persone che sono le nostre imprese, che stanno magari da 20 anni con noi. E questo è il dilemma che i nostri imprenditori ci rappresentano. E questo è a questo che bisogna riuscire a dare una reazione. Sull'altare della crisi l'Italia sta pagando un gravissimo prezzo e le costruzioni più di tutti. Non c'è fiducia negli investimenti e stanno diminuendo gli investimenti pubblici. Allora a questo punto invece è necessario reagire. Noi dobbiamo avere la capacità di reagire. Noi dobbiamo reagire. E sempre il presidente dell'ANCE Buzzetti, per quello che riguarda gli scandali che tuttora aumentano di giorno in giorno e che hanno coinvolto in grande parte costruttori dell'edilizia, ha detto: attenzione, noi non siamo la cricca, non potremo mai esserlo, non siamo la cricca dei faccendieri, non ci arrabattiamo tutto il giorno per cercare una raccomandazione o per entrare a far parte dei circoli di potere che aiutano a scalare la vetta e che sono in grado di trasformare aziende artigiane che nessuno conosceva prima in imprese con un fatturato con molti zeri. Siamo imprenditori e non faccendieri. Poi l'appello a tornare investimenti nel settore delle infrastrutture, portandoli al 2,5% del PIL, con un coinvolgimento maggiore della componente pubblica e privata. Tra l'altro, questo l'ha ricordato la presidente Confindustria Emma Marcegaglia, che è intervenuta in un collegamento all'assemblea del Lance e ha detto appunto: attenzione, bisogna far ripartire gli investimenti complessivi, appunto, settore privato e settore pubblico. Il settore delle infrastrutture storicamente in Italia ha un peso come componente percentuale del PIL più bassa di altri paesi, questa percentuale si è ulteriormente abbassata nel periodo di crisi. Anche qui il nostro obiettivo è proprio quello di tornare ad avere un investimento in infrastrutture in linea con diciamo, le grandezze europee. Nel nostro documento Italia 2015, che abbiamo consegnato al governo e alle istituzioni in occasione della nostra assemblea pubblica del 27 maggio, in questo documento noi abbiamo individuato i settori chiave fondamentali per tornare a crescere: ricerca, innovazione, pubblica amministrazione e tutti gli altri, e certamente abbiamo messo al centro dell'attenzione il tema delle infrastrutture, dicendo che credo che l'obiettivo comune di tutti noi debba essere quello di tornare ad avere un investimento in infrastrutture pari al 2,5% del PIL. Sappiamo che è difficile un momento di rigore dei conti pubblici, che noi condividiamo pur nella difficoltà, ma certamente dobbiamo lavorare tutti insieme, magari anche con altri strumenti, gli strumenti del project bond, del coinvolgimento maggiore degli investimenti privati, ma certo anche con una componente di investimenti pubblici. Dobbiamo tornare ad avere un investimento in infrastrutture più forte rispetto a quello degli ultimi anni, perché è da qua certamente che può venire una capacità di crescita del nostro paese. Così la presidente di Confindustria Marcegaglia. Vedo alcuni messaggi al 349-238-6666 che dicono: vabbè, ma il settore costruzioni è andato benissimo per 10 anni, e, insomma, di cosa si lamentano? Beh, sì, insomma, io mi preoccuperei, oltre che dei costruttori, dei loro dipendenti, dei 200.000 lavoratori espulsi, se vogliamo parlare del settore, non solo delle persone. Verissimo che anche nella stagnazione economica del 2001, 2002, 2003 il settore costruzioni continuava a tirare, però ripeto, i cali sono stati significativi. Il 15% a cui facevamo riferimento è un dato pesante anche per il settore costruzioni, il meno 17% negli investimenti e il meno 30% nelle nuove abitazioni. Ma ripeto, non è solo la ricchezza dei singoli costruttori, è soprattutto l'occupazione e il futuro degli occupati nel settore. 200.000 persone espulse non è roba da poco. Adesso ci fermiamo per il meteo e la pubblicità, poi commentiamo la miglior trimestrale da sempre, quindi bilancio del secondo trimestre, quella diffusa oggi dal colosso mondiale Intel. È un periodo di trimestrali e stanno uscendo tutte bene quelle americane, eh? E domani c'è Google, poi IBM, poi Yahoo, poi Microsoft. Intel è il primo produttore al mondo di microchips, quindi all'80% del mercato, e da lì infatti si attende di capire, diciamo, quanto i grandi gruppi in primo luogo siano già usciti dal bruttissimo 2009. Ci risentiamo dopo il meteo. 349-238-6666 per i vostri SMS. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, prima di arrivare alla borsa, che ha chiuso con un leggero calo a Milano, meno 0,23%, più 0,30% a Francoforte, più meno 0,1% a Parigi e Londra tra le peggiori, mezzo punto percentuale, buona l'America, più 0,20%. L'euro sempre in rafforzamento, vicino a quota 1,28 a questo punto, perché siamo a 1,27,80. Vorrei occuparmi delle trimestrali. Ha iniziato Alcoa, oggi Intel, come ricordavamo poi ci saranno Google domani, la settimana prossima IBM, Yahoo e Microsoft. Partono sempre prima le americane, ma è importante questo perché vedere come i grandi gruppi hanno chiuso il secondo trimestre del 2010 significa capire anche l'intensità della ripresa in atto. C'è chi ci scrive al 349-238-6666 ancora sul tema del mondo delle costruzioni dell'edilizia. diceva, beh, ma attenzione che in realtà molto spesso i lavori sono in nero, per cui ecco perché non fanno notizia. Non lo so, i dati sugli investimenti e giro d'affari sono oggettivamente in netto calo, poi il resto non lo so dire, però sicuramente è un settore che ha una grossa difficoltà. Comunque parliamo invece di chi difficoltà a questo punto non ne ha più. Allora, o meglio, insomma, non ne ha più, ci auguriamo che non ne abbia per un po', mi riferisco al colosso mondiale nella produzione di microchips, o chips, scusate, l'80% del mercato dei chip per i personal computer, sapete tutti cos'è un chip, è la cosa che fa funzionare di fatto il personal computer, si chiama Intel, è appunto il primo produttore al mondo e ha circa 80.000 dipendenti. La trimestrale è uscita ieri in tarda serata, l'utile netto è schizzato a 2 miliardi e 900 milioni di dollari con un dividendo di 51 centesimi per azione, ricavi a 10 miliardi in aumento del 34% e il gruppo ha annunciato ieri sera, è il miglior trimestre della nostra storia. Siamo in collegamento allora con chi rappresenta, nel senso che è l'amministratore delegato di Intel in Italia e in Svizzera, ingegnere Dario Bucci, buonasera. Buonasera a lei. Allora, a parte il fatto che avete anche avuto un effetto sulla borsa, perché non a caso STMicroelectronics, che opera nello stesso settore, guadagna oggi il 2,7% a Milano e rivede quasi la soglia di 7 euro per azione. Mi dice come avete fatto nel secondo trimestre dell'anno a fare il miglior risultato di sempre? Cioè, che cos'è che l'ha trainato e l'ha guidato? Ma io credo una combinazione di due fattori. Il primo è che in termini di mercato, ad un mercato diciamo privato del consumatore che non ci ha mai abbandonati anche nei 18 mesi bui che abbiamo visto a partire dalla metà del 2008, si è aggiunto un ritorno da parte delle aziende a investire in informatica e quindi i numeri in termini di unità di processori venduti hanno raggiunto il loro record. Questa è una prima parte. La seconda parte che in qualche modo spiega il record anche di profitto, ricordiamo una marginalità lorda del 67% che è un record per noi, il fatto che siamo in qualche modo riusciti a ottenere la fiducia del mercato su il mix di processori di fascia più alta, quindi non solo si sono venduti diciamo più processori, ma all'interno del mix di prodotti quelli di ultima generazione, la famiglia Core per intendersi, basati sui processi su cui abbiamo investito anche in produzione, ricerca e sviluppo, ma anche fabbriche l'anno scorso, ne traiamo a questo punto profitto, sono prodotti di maggior marginalità per noi e che il mercato sta accettando molto bene. La combinazione è lì da vedere, oddio, non dire che non abbiamo più problemi mi sembra un filo eccessivo. Ve l'ho tirata, ve l'ho guffata, vabbè. Una cosa, ingegner Bucci, però adesso noi stiamo cercando in questi mesi di capire tutti, insomma, raccogliere tutti gli indicatori, non quelli ufficiali, non l'Istat, ma tutto quello, non so, l'esempio classico è il Baltic Dry Index, cioè che va a misurare quanto costa noleggiare un cargo, ce ne sono altri, per capire insomma l'intensità di questa ripresa. Ecco, secondo lei, dalla domanda che avete avuto, al di là di quella per i processori di fascia più alta, ma la domanda complessiva può significare, mi riferisco a livello mondiale, una ripartenza dell'economia in maniera, non dico forte, ma quantomeno univoca, oppure no? Beh, sicuramente la risposta è affermativa, perché come dicevo in precedenza, 2009 ha visto il restarsi completamente da parte delle aziende degli acquisti della parte informatica, sia per quanto riguarda i PC sia per riguardo i server. E invece dopo qualche avvisaglia già nel primo trimestre, ovviamente in maniera non continuativa, il secondo trimestre è stata una conferma che le aziende hanno ricominciato ad acquistare, PC perché ovviamente non era più dilazionabile la sostituzione di macchine che ormai sono obsolete, ma anche hanno cominciato a investire in server, in progetti di innovazione, in nuovi modelli di supporto alla competitività, e questo a mio parere significa che se non altro va un po' meglio, ci sono delle prospettive anche per il futuro un po' più rose. Ovviamente poi il panorama internazionale è vario e devo dire che l'Europa non è forse uno dei paesi più brillanti, però comunque anche in Europa abbiamo avuto dei dati migliori della stagionalità, quindi abbiamo avuto dei dati che sono superiori a quello che ci si poteva aspettare dopo il primo trimestre. Allora, quanto hanno contribuito i licenziamenti, i tagli ai dipendenti in questo, nel raggiungimento di questo risultato? Parlo a livello di Intel mondiale oltre che italiano. Ma, nulla, diciamo che di fatto noi abbiamo operato una serie di ristrutturazioni e di diciamo focalizzazione a raggiungere maggiore efficienza, ma nel 2006, quindi in periodi non sospetti, quando la crisi non si vedeva all'orizzonte, ma semplicemente era chiaro che dovevamo operare internamente dei miglioramenti di efficienza anche per essere in grado di rispondere alle domande dei nostri clienti in maniera più veloce. E direi che poi nel frattempo sicuramente ha giovato molto di più l'investimento continuato anche in mezzo a una crisi economica forte come quella che ha visto il mercato e che di cui, come dicevo in precedenza, noi traiamo profitto in questo momento. I licenziamenti sono storia veramente lontana nel tempo per noi. Un'ultima domanda riguarda il 2010, sempre a livello di gruppo, poi anche magari italiano. Come sono le previsioni vostre per il terzo trimestre almeno? Sì, beh, noi abbiamo lasciato proprio pubblicamente delle previsioni ancora una volta un po' meglio della stagionalità, considerando che si basano su un secondo trimestre record in 42 anni, quindi comunque positivi. Diciamo che per la seconda metà dell'anno comunque ottimiste come visioni, nel senso che pensiamo che questo mercato aziendale continui a crescere in termini di domanda e il mercato consumer non molli, quindi continui a sostenere questa crescita. Questo è vero a livello mondiale, ma direi che è anche abbastanza vero a livello italiano. Noi abbiamo evidenza di molte trattative, di molte discussioni su gare per le grosse aziende italiane per la seconda parte in consegna, la seconda parte dell'anno, che quindi sono in qualche modo una conferma di una tendenza che vede l'Italia non molto diversa rispetto al panorama mondiale. Va bene, in bocca al lupo a Intel e ai suoi dipendenti, ai suoi 80.000 dipendenti, soprattutto grazie all'amministratore delegato di Intel Italia e Svizzera, l'ingegnere Dario Bucci. Grazie a voi. Vabbè, vedremo se poi anche domani e la settimana prossima dall'America arriverà questa ventata di ricavi, di rialzi, di utile. Vedo che molti scrivono al 349-238-6666, sì, ma hanno ottenuto questi risultati licenziando. Allora, il rischio di una, quella che in americano si chiama jobless recovery, cioè una ripresa economica senza creazione di posti di lavoro, è alto. Anche oggi Nomisma, per quello che riguarda l'Italia, ha stimato che solo metà dei posti persi, degli 800.000 posti persi, potranno essere recuperati da qua al 2013. Però sempre meglio vedere, scusatemi, una trimestrale buona e dividendi, insomma, grandi gruppi che ritornano a fatturare, avere ricavi, avere utili, anche perché c'è domanda e significa avere domanda di beni e servizi che non il contrario. Sull'occupazione, lo so, è un rischio assolutamente presente. E adesso però la borsa, ciao Condina, buonasera. Buonasera a tutti. Radio Colli, Sole 24 Ore. Poi abbiamo il traffico, però su ST Microelectronics più 2,7%, mi sembra che insomma l'effetto Intel sia chiaro. Sì, sì, ST è un diretto rivale di Intel, quindi cosa che è avvenuta già nei trimestri precedenti, quando Intel faceva registrare un buon dato di bilancio, anche ST ne giovava. E questo vale anche per ASML, l'olandese, un altro rivale di ST, oggi ha dato degli ottimi dati trimestrali e quindi ciò ha contribuito a rendere ST il miglior titolo dell'S&P MIB, con un rialzo del 2,6%. Bene, poi gli altri titoli della giornata di borsa dopo il traffico, 349-238-6666 per i vostri SMS. Di nuovo in diretta per parlare di borsa. Allora, cioè, borse leggermente deboli. Va detto però che sei sedute di abbiamo assistito a sei sedute di rialzi continui, per cui insomma non si può lamentare. Oltre a ST Microelectronics, oggi ha fatto notizia a Milano, quindi a Piazza Affari, Unipol più 2,3%. Sì, si è chiuso l'aumento di capitale con adesioni da, che hanno raggiunto il 98,5%, quindi insomma un pieno successo per una ricapitalizzazione che quando fu annunciata a maggio aveva creato più di una perplessità tra gli investitori per il semplice fatto che avveniva prima della presentazione del piano industriale. Adesso i fatti per il momento danno ragione comunque al management della compagnia bolognese. Ancora per quello che riguarda i titoli oggi, l'Automatica più 1,1, Impregilo più 0,90, Fiat più 0,70, Parmalat mezzo punto percentuale di rialzo come Fondiaria SAI, lo 0,40 lo guadagna Terna e anche Geox. Fronte opposto invece Luxottica meno 1,90, Azimut meno 1,90, Finmeccanica meno 1,70, Buzzi meno 1,20 come Saipem, l'1% del calo di Atlantia e di UbiBanca, lo 0,80 quello di Unicredito e Intesa San Paolo e Bulgari. Unicredito ha annunciato oggi l'obbligazione da 500 milioni di euro, mezzo miliardo di bond, ma la cosa interessante non è questa, la cosa interessante è che si tratta di uno strumento innovativo, anche se poi gli ascoltatori ci hanno corretto, guarda che ce l'ha anche Intesa San Paolo, perfetto. È un'obbligazione perpetua. Che cosa vuol dire perpetua? In sostanza, insomma, è una dura quanto durerà Unicredito. Permette chiaramente la facoltà di rimborso anticipato a partire dal decimo anno, deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia. E sentiamo Alessandro Profumo, numero uno di Unicredito, al microfono del nostro Antonio Vanuzzo, commentare questo lancio, perché è arrivata questa mattina la notizia, 9:28 per la precisione. Abbiamo degli strumenti che diciamo scadono e diciamo tendiamo a rinnovare gli strumenti che abbiamo. Cioè, voi sapete che capitale ibrido nostro è pochissimo, siamo al 9% della base di capitale, tendiamo a mantenere più o meno questa quota che ci sembra giusto e corretto. Allora, la reazione è imputabile a questo, cioè, oppure no? Perché lo strumento è uno strumento interessante, appunto, dura quanto dura Unicredito. Alcuni ci hanno scritto, molti sono promotori finanziari, hanno detto guardate che è un buono strumento perché permette una rendita costante ed è meno costoso di tante formule assicurative. Se ne occuperà a breve anche Deborah Rosciani la mattina con Salvadanaio, però... Ciao. Ma sì, allora, lungi dal consigliere il titolo, no, però certo. Vista la cedola è sicuramente attraente. Sì. Al di là di questo, diciamo che... La cedola quanto è? Perché non l'abbiamo detto. Ma la cedola è del 9,375%. Però, non male. Un coupon fisso per i primi 10 anni di vita, poi ovviamente bisogna anche vedere il prezzo di collocamento, quello chiaro, di riscatto, quindi poi... Però, insomma, al di là di quello che ce l'ha anche la Popolare di Milano, va bene, prendiamo sì, atto, ce l'hanno tutti praticamente, sì, fra un po'. Però il calo di Unicredito è dovuto al calo generale delle banche o a qualche altro ragionamento? Ma calo generale delle banche, fondamentalmente tra gli operatori c'è una certa, diciamo, nervosismo, incertezza, anche perché a breve erano diffusi diciamo, i dati sugli stress test effettuati, cioè diciamo sulla tenuta, sulla solidità delle banche europee, quindi anche di quelle italiane. Unicredito ha perso lo 0,84, Intesa lo 0,7, quindi insomma c'è attesa e al tempo stesso nervosismo tra gli investitori. Per questo motivo. Allora, i migliori e i peggiori, adesso ve li diamo, mancano ancora alcuni titoli di cui vorrei parlare, perché c'è Finmeccanica che è in calo abbastanza significativo, meno 1,7% oggi. Sì, Finmeccanica, diciamo, al di ancora là del... Mockbell. Sì, ancora Mockbell, su questa indiscrezione che il direttore generale Zappa abbia visto nel maggio 2008, uomini vicini a Mockbell. Comunque, diciamo, il fatto che Finmeccanica sia stata toccata da questa inchiesta, in cui comunque tutto il coinvolgimento è ancora da provare, comunque in borsa Finmeccanica risente, perché è un po' di tempo che sta lasciando sul terreno soffrendo. Punti percentuali. E poi Interpump, da un lato, andiamo sui titoli più piccoli, ma i migliori e i peggiori in assoluto. Allora, abbiamo visto un Interpump andare molto bene, diciamo, dichiarazione del presidente Cavallini, e poi Coin bene, più 4,3, Cell Therapeutics più 4,6, Dada più 4, Gabetti più 6,93, Meridiana Fly più 21%. Che è successo? No, Meridiana ha reso noti proprio oggi nuovi termini dell'aumento di capitale, ecco, che sono anche vantaggiosi per chi detiene già le azioni. Presentano un cambio vantaggioso, quindi è possibile che qualcuno abbia cercato di giocare ad anticipo sul mercato, insomma, in vista dell'aumento di capitale. Allora, e poi Stefanel più 19,6%. Qui continua. Quanto ha preso il 200%? Saremo quasi al 200%, vado a spanne, perché era più 254. Eccoci qua. Sì. Il 254% di rialzo sul titolo nell'arco di due settimane? Sì, perché neanche due settimane. No, dal 5 luglio, quindi è meno. Poco più di una settimana. Insomma, più che buona, è quasi un eufemismo dire una riduzione, dire più che buona l'accoglienza del mercato, anche oggi un 19,6% a 5,61 euro. Chi ha perso di più invece è Ross, meno 8,1, e poi Meride, meno 5, Valsoia, meno 4,25%. Interpump, Cavallini, come dicevi, ha indicato che ad aprile a maggio c'è stata un'accelerazione del fatturato del 33%, e quindi, insomma, gli investitori hanno premiato un'azienda che in borsa viene indicata un po' come un simbolo dell'economia reale, dal momento che produce pompe ad alta pressione. Esatto, e su questo, non sulle pompe ad alta pressione, ma sulle aziende, avremo a breve degli approfondimenti, lo anticipo a chi ci sta ascoltando, perché da quello che capiamo, è ancora un po' presto per dirlo, ma da quello che capiamo, le medio-grandi imprese che hanno liquidità, che hanno ben gestito l'azienda, stanno veramente uscendo rafforzate o comunque riprendendo a marciare, facendo acquisizioni, quindi le aziende virtuose, forti, saranno ancora più forti. Il problema è capire cosa succede ai deboli o a chi è in difficoltà, perché lì invece la crisi spazzerà. Però ci sono molti indicatori, soprattutto per la fascia di medie imprese italiane, che dicono che hanno fatto acquisizioni, si sono rafforzate e potranno correre ancora di più. Comunque, grazie per ora ai colleghi di Radio Corriere Sole 24 Ore. Nel caso specifico oggi, Ceo Condine. Grazie a voi. Adesso c'è il GR, poi parliamo di banche, l'addio, l'ultimo saluto di Corrado Faissola, presidente dell'ABI, e poi parliamo anche dell'export, buoni dati sul nostro commercio con l'estero, e della centrale a utilizzo anche di energia solare inaugurata oggi dall'Enel in Sicilia, vicino a Siracusa, a Priolo per la precisione. 349-238-6666 per i vostri sms, il GR. 18:10, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Allora, dopo aver commentato i dati molto buoni di Intel a livello mondiale, una delle prime trimestrali ad uscire, che ha fatto ben andare anche la concorrente ST Microelectronics in borsa, più 2,7, dopo aver parlato invece dei dati ancora negativi e di difficoltà significativa del settore delle costruzioni in Italia e i 200.000 posti di lavoro persi, l'appello del presidente dell'ANCE Buzzetti, aver fatto le borse, aver sentito, molti di voi ci stanno chiedendo su questa obbligazione perpetua di Unicredito, sono obbligazioni subordinate, un livello, alcuni di voi scrivono attenzione, c'è una forte volatilità sul prezzo. Ripeto, oggi l'ha annunciata questa mattina anche Unicredito, 500 milioni di obbligazioni. Ne parlerà nei prossimi giorni Deborah Rosciani per quello che riguarda le modalità, i rischi e invece anche i vantaggi. Restiamo in tema di imprese. Perché? Perché su questo oggi sono arrivate delle stime interessanti in quello che dovrebbe rappresentare il più forte elemento di ripresa per la nostra industria, che purtroppo non si chiamano consumi interni ma si chiamano esportazioni. Il numero per i vostri sms è come sempre 349-238-6666. Più 8% è quello che l'ICE, che è l'Istituto per il Commercio con l'Estero italiano, prevede come andamento dell'export italiano nel 2010. Praticamente da solo questo 8% dell'export, se confermato, dovrebbe garantire una crescita di un punto e mezzo del PIL, come ha ricordato il vice ministro Urso, Adolfo Urso, vice ministro dello sviluppo economico, al microfono della nostra Chiara Di Michele. Le esportazioni italiane sono tornate a crescere sin dal settembre dello scorso anno in maniera più forte e anche per certi versi imprevedibile nella prima parte di quest'anno, trainando quel poco ma significativo di crescita interna del prodotto interno lordo. Per questo noi riteniamo che occorre raddoppiare, accelerare la crescita dell'esportazione per accelerare la crescita del PIL e quindi della produzione interna. Questa è l'unica strada, perché i consumi nazionali in Italia, come nel resto d'Europa, sono invece stazionari. E poi il presidente dell'Istat, Enrico Giovannini, che ha ricordato un dato importantissimo a nostro avviso, e che va nella scia di quanto stavamo dicendo, cioè dei segnali, dei venti di ripresa, soprattutto per quello che riguarda le medie imprese già solide, già presenti sui mercati, che hanno saputo ristrutturare, andare a esplorare nuovi mercati. Insomma, il 54% delle imprese italiane che esportano, e qui infatti il problema è più sulle piccole deboli che non sulle medie già solide, sono tornate ai livelli di esportazione pre-crisi, praticamente un più 30% nell'export rispetto al 2009, che le riporta al livello di esportazioni precedente, insomma all'ottobre del 2008. Appunto, sentiamo Enrico Giovannini, presidente dell'Istat, sempre al microfono, la nostra Chiara Di Michele. Il sistema delle imprese italiane ha avuto un periodo molto difficile nel 2008 e nel 2009, ma in netta ripresa. Il 54% delle imprese italiane ha recuperato i livelli delle esportazioni pre-crisi e quindi questa percentuale è salita dal 30% del 2009 al 54%, quindi effettivamente c'è una fase positiva. Direi che il sistema economico italiano ha agganciato la ripresa internazionale. Stanno aumentando anche le importazioni, ma questo è normale in una fase iniziale del ciclo, e quindi dobbiamo adesso riuscire a capire come la ripresa internazionale continuerà e come l'allargamento della presenza sui mercati internazionali delle imprese italiane riuscirà a trainare la crescita del PIL. Speriamo, perché sarebbe veramente un dato importante. Ripeto, non tutti potranno essere salvati, è brutto dirlo, ci saranno anche i sommersi, però da quello che vediamo, chi si sta riprendendo in maniera più forte, come dopo insomma un'influenza, con degli anticorpi più presenti. Diverso il caso invece di alcuni grandi gruppi, e qui purtroppo andiamo su una nota dolente, mi riferisco al gruppo Telecom Italia. Perché? Perché due giorni fa ha creato molta preoccupazione l'annuncio che Telecom Italia avrebbe ha deciso 3.700 esuberi, quindi 3.700 persone che se ne vanno dal gruppo. Subito il governo ha chiesto un incontro con i vertici di Telecom Italia, l'incontro è stato fissato per oggi, è iniziato intorno alle 16.30, i vertici di Telecom Italia assieme ai sindacati e ai vari rappresentanti del governo, tra cui il sottosegretario Paolo Romani. Ora, questi 3.700 esuberi entro il 2011 fanno parte di un piano di tagli ben più consistente, per cui da qua ai prossimi tre anni, da qua al 2013, dovrebbero uscire da Telecom Italia 6.800 persone. I dipendenti di Telecom Italia attualmente sono 72.000, quindi stiamo parlando quasi di uno su 10, il 10% della forza lavoro. Tavolo iniziato alle 16.30, sospeso poco dopo alle 16.50 per incontri bilaterali, poi dovrebbe riprendere. Allora ci colleghiamo con la nostra Chiara Grandis, che sta seguendo appunto l'incontro tra il governo, il vertice Telecom e i sindacati. Chiara, le evoluzioni. Sì, buonasera. In questo momento al tavolo siedono governo e azienda. Solo dopo quest'ultimo incontro bilaterale riprenderà il confronto a tre e dunque alla presenza dei sindacati confederali che sono CISL, UIL, CGL e UGL. A rappresentare l'esecutivo, come dicevate, oggi ci sono il viceministro dello sviluppo economico con delega alle comunicazioni Paolo Romani, c'è il ministro del lavoro Maurizio Sacconi che su Telecom nel primo pomeriggio è intervenuto anche in question time della Camera dicendo: speriamo perché le cose riprendano nel giusto verso, confidiamo in una necessaria e doverosa intesa. Il punto cardine della trattativa, come ricordavate, è la mobilità per 3.700 dipendenti prevista entro giugno dell'anno prossimo, come vuole il nuovo piano industriale dell'azienda. Quello di oggi dovrebbe essere un incontro interlocutorio, ma sembra, si dice, sono voci di corridoio, che la partita si giochi fra sospensione del provvedimento e quindi sostanzialmente un rinvio, oppure un ritiro dei licenziamenti, ipotesi che però appare meno probabile, ipotesi invece che auspicano fortemente i sindacati presenti. Quindi diciamo, Chiara, il punto di caduta, il punto di intesa potrebbe essere rappresentato non dal ritiro del provvedimento, perché altrimenti dubito che Telecom potrebbe accettare una cosa del genere, altrimenti perché annunciarlo, ma da una sospensione, quindi una dilazione del provvedimento stesso? Esattamente, l'annuncio di una sospensione, questo è quello che si dice qui fuori dal tavolo, insomma. Sì, che... E poco fa per l'azienda è intervenuto l'amministratore delegato Franco Bernabè, che ha spiegato che oggi Telecom è in fase di recupero grazie ai sacrifici di tutti, con il 35% in meno dei dirigenti. Intanto i sindacati confederali che sono qui presenti hanno annunciato altre 4 ore di sciopero per lunedì prossimo, sciopero in Toscana, in Liguria e in Piemonte, e questo contro tagli che dicono colpirebbero soprattutto i settori commerciale e amministrativo. Sì, la sospensione diciamo, sarebbe un palliativo, risolverebbe solo parzialmente il problema. Comunque staremo a vedere, la trattativa a questo punto andrà avanti e non, da quello che abbiamo capito, Chiara, non si risolverà oggi. Grazie intanto alla nostra Chiara Grandis, che la sta seguendo appunto al Ministero allo Sviluppo Economico. Traffico che siamo in ritardo, poi l'ultimo bilancio di Corrado Faissola, che domani lascia ufficialmente la carica di presidente dell'ABI, e la centrale Archimede, la prima centrale dell'Enel al mondo a tecnologia assali fusi, in sostanza usa la luce solare, l'ha inaugurata l'Enel oggi a Priolo. 349-238-6666 per i vostri sms. Ultima parte di Focus Economia con Sebastiano Barisoni. Allora, doppio colpo per l'Enel questa settimana. Lunedì a Fusina, Venezia, inaugurazione della centrale a idrogeno, la prima in assoluto, e abbiamo raccontato insomma, che permette la produzione di energia elettrica per quell'equivalente di una città di 20.000 abitanti. Oggi la prima centrale al mondo a ciclo combinato, quindi che non va solo con il sole, però capace di funzionare 24 ore al giorno anche in assenza di sole. In realtà usa la tecnologia dei sali fusi integrata con un impianto a ciclo combinato, per cui usa il mix diciamo di fonti. La capacità dell'impianto solare centrale è comunque di circa 5 megawatt, praticamente un risparmio intorno ai 2.100 tonnellate equivalenti di petrolio, che permetterà di emettere 3.250 tonnellate di anidride carbonica in meno. Sentiamo su questo l'amministratore delegato dell'Enel, Fulvio Conti, al microfono la nostra Irene Privitera. È la punta di diamante di un processo, di un progresso continuo che noi come Enel intendiamo portare avanti nel campo delle rinnovabili. Questo è un prototipo e chiaramente ha un costo particolarmente elevato perché è il primo del suo genere. Ma siamo confidenti che soltanto impegnandoci, come questo impianto dimostra, nei nuovi processi produttivi si è in grado di generare quel meccanismo industriale di riduzione dei costi che sulla larga scala potrà consentirci di utilizzare. Breaking news. Da Roma la conferma è arrivata proprio poco fa. Il sottosegretario all'economia Nicola Cosentino, coinvolto nell'inchiesta soprannominata P3, si è dimesso, ha lasciato l'incarico di sottosegretario, dunque conservando quello di coordinatore PDL per la Campania. Tutti gli aggiornamenti in GR24 alle 19. Grazie alla nostra redazione Annalita D'Ambrosio per questa breaking news, attesa la dimissione di Cosentino da tutto il pomeriggio. Sono arrivate, noi andiamo avanti invece con la centrale Enel che appunto si trova vicino a Siracusa, a Priolo Gargallo. E Fulvio Conti ha ricordato, la centrale solare si chiama Archimede, non a caso, insomma. Nome quanto mai evocativo anche per l'utilizzo che fece Archimede degli specchi proprio a Siracusa. Comunque, ha ricordato come il futuro anche per l'Enel quanto alla produzione di energia elettrica sarà composto da un mix di fonti. La situazione complessiva che passa al mantenimento di tutte le tecnologie di produzione, il più ampio mix di generazione di energia di cui abbiamo bisogno. Per questo motivo spingiamo moltissimo nel processo di efficienza energetica con le reti intelligenti, il contatore digitale, nelle tradizionali, nelle termiche, con innovazioni particolarmente spinte e sempre sostenibili ambientalmente, come quella del carbone pulito che stiamo portando avanti a Civitavecchia, che ci vedrà impegnati in altre parti d'Italia, tra cui Porto Tolle, ed inoltre con le tecnologie del nucleare che servono evidentemente a stabilizzare la nostra capacità produttiva, portando il nostro paese a livello degli altri paesi a noi vicini, come la Francia, come la Germania, come la Svizzera, da cui importiamo energia nucleare. E il nucleare, ci chiedete al 349-238-6666, perché fare il nucleare se c'è la centrale idrogeno, la centrale solare? Beh, secondo il ministro all'ambiente, tra l'altro, non allo sviluppo economico, insomma, Stefania Prestigiacomo, ha detto attenzione, queste fonti di energia solare, idrogeno o idrogeno non sono alternative al nucleare. L'energia nucleare non è alternativa alle fonti rinnovabili e questa è una testimonianza ulteriore di come noi stiamo facendo grandi passi in avanti e di quanto il governo, anche con le correzioni apportate nella finanziaria, intenda sostenere con convinzione quello che è un settore in forte crescita in tutto il mondo e l'Italia non può perdere ovviamente la corsa verso le fonti rinnovabili. Quindi il nucleare resta, poi vedremo se le regioni daranno gli spazi. Già molte regioni hanno detto sì, bello nucleare, ma non qui. Ultimo tema, domani l'assemblea dell'ABI, la presenza del governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, di mezzo governo, l'assemblea delle banche italiane, e l'addio, il saluto finale, il bilancio del suo mandato, Corrado Faissola l'ha consegnato al nostro Vincenzo Miglietta, dicendo insomma è migliorato nel mio mandato il prestigio delle banche italiane. Conto di lasciare un'ABI che è molto rivalutata per quanto riguarda la sua funzione di punto di riferimento per tutti gli stakeholder, le autorità di vigilanza del sistema, con una cultura interna molto sviluppata tecnicamente di altissimo livello, con una buona capacità di interpretare le esigenze della nostra società. Che giudizio dà dunque del sistema bancario nei rapporti con la crisi? Lei ha detto grazie a noi probabilmente si è tenuto in piedi il sistema Italia. Ma il giudizio direi non spetta naturalmente a me di darlo, ma di riportare soltanto quelle che ormai sono le impressioni, le dichiarazioni di tutti. Il sistema bancario italiano ha rappresentato nel momento della crisi e rappresenta tuttora il baluardo più solido per il mantenimento della stabilità finanziaria, economica e sociale del nostro paese. Ci sono stati momenti di grande crisi con le imprese proprio per il flusso del credito. Adesso come siamo messi? La crisi del credito è stata determinata soprattutto dalla mancanza di domanda di credito valida. Gli investimenti sono crollati, è evidente che se non si fanno investimenti, ecco, non si possono chiedere finanziamenti per supportarli. Quindi abbiamo avuto momenti difficili, tuttora abbiamo momenti difficili, ma questo dipende dalla crisi che ha colpito soprattutto le nostre piccole e piccolissime imprese, che per la loro struttura sono un anello non particolarmente forte di tutto il nostro sistema produttivo. Le banche non hanno lesinato interventi anche di sostegno in situazioni di crisi. Le banche però hanno la responsabilità di amministrare il denaro dei loro depositanti, farebbero un pessimo servizio a se stesse, ma anche al paese intero, se erogassero credito facile, come purtroppo è capitato in tanti altri paesi, non ultimo quello dove la crisi è esplosa, ricordate, con i mutui subprime, che altro non sono che il risultato di crediti dati senza la minima cognizione di quello che significa erogare credito. Un'altra domanda, Presidente. Dice: chiediamo più attenzione da parte del Governo, in realtà però poi la manovra all'esame del Parlamento in effetti non tocca il sistema bancario, ha un po' penalizzato le assicurazioni, sbaglio? Noi siamo stati fortemente penalizzati, saremo ad esempio dall'allungamento dell'età pensionabile anche per coloro che già sono entrati a far parte dei fondi esuberi e degli esodi anticipati, e questo probabilmente avrà per il sistema bancario un costo superiore alle maggiori imposte che noi naturalmente auspichiamo che tolgano ai nostri cugini delle assicurazioni, ecco, perché il mal comune non è mezzo gaudio. Come vedi l'ipotesi di un fondo europeo pre-crisi del sistema bancario? È un tema, direi, che non è ancora stato approfondito in sede associativa né in sede di Federazione Bancaria Europea. Credo che siano meritevoli tutti gli approfondimenti del caso, senza però far gravare sul sistema bancario italiano in particolare ulteriori oneri che non gli competono. Allora, questo è il saluto di Corrado Faisolo. Domani seguiremo invece l'assemblea dell'ABI, avremo modo anche di fare dei rilievi sui costi che le banche fanno pagare i prestiti alle imprese e ai mutui. Cruciani ci faccia sentire l'intervista a Di Pietro nella quale dice a Berlusconi che sto preso con le mani nel sacco, e insomma ci sono già dei messaggi per Giuseppe Cruciani. Mi sembra arrivato il tuo momento, Giuseppe. Cosentino. Beh, dimissioni che sembrano imminenti. Noi come al solito cercheremo di capire come si arriva a queste dimissioni, cosa faranno i finiani adesso. Ci sarà il nostro ospite più tardi, il senatore del Partito Democratico Ignazio Marino, e altri ancora. E allora, in attesa delle dimissioni ufficiali, anche se noi la breaking l'abbiamo già fatta, perché ormai tutti la danno assolutamente per scontata, le fonti... Tu non mi hai ancora risposto su questa cosa dei 150 anni, Dei 150 anni? Se vorresti vivere fino a 150 anni. Dipende come, faccio una risposta democristiana. Molto democristiana, molto. Io no, io lo dico subito. No, nemmeno io, mi sono bastati i primi 40, vediamo anche i prossimi 40. Grazie Giuseppe Cruciani. Da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Non vi preoccupate, a chi scrive parleremo anche delle banche, dei tassi, di quanto guadagnano nel prestare denaro. Nessun problema. A domani. Radio 24. La passione si sente.